24 di Giovanni Minoli. Lei lo sa cos'è l'omeopatia? Io no, non saprei che dire. Non ci ho mai pensato. Nel senso, cose così leggere, no? Sono teorie che non vengono mai convalidate da nessuna ricerca scientifica. Quindi lei non ha mai avuto curiosità? No, neanche. Neanche io. Sicuramente sono validi, al 100%. Usa prodotti omeopatici? No, non li uso. No. Mai? Mai. Sì. No, no. No, non mi è mai capitato. Qualche volta. Non costantemente. Mi piacerebbe provare. E lei li usa? Ne ho usati quando ero un adolescente ancora. Un qualcosa per calmarmi, per lo stress, per la scuola. Non ho mai fatto uso. Ma pensa che siano cose inutili? No, perché? Penso che le medicine siano un po' più invasive, però quando sto male vorrei stare bene subito. Se ho un problema generalmente uso le medicine. Non mi è mai capitato, non ho nessun pregiudizio in realtà. Non mi servono. No, no, io non li prendo. Perché? È perché sto bene fondamentalmente. Questo mi fa molto piacere, però una cosa banale. No, no, ma nemmeno il raffreddore mi viene a me. Niente, bene. Vedo che ha acquistato un prodotto omeopatico, come mai? Mi sono fatta consigliare dalla farmacista e mi ha consigliato questo. Mi vengono consigliati e se è, diciamo, una patologia che può essere curata con l'omeopatia, volentieri. Anche lei con un prodotto omeopatico li usa spesso? Sempre, io li uso sempre. Perché? Per il raffreddore, il mal di gola, il mal di testa. Però bisogna usarli da quando si è piccoli perché è una cura personale. Prova che questo le faccia... Funziona, sì. Sì, a me funziona, mi passa tutto. E da quanto tempo li usa? Da quando sono piccola. Mi hanno portata dall'omeopata perché con gli antibiotici non riuscivo a guarire e ora le prendo sempre. Lei sorride, non ci crede? No, non ci credo molto, mettiamola così, omeopatia e magie varie. Però sono in molti ad usare l'omeopatia. C'è un'industria molto grossa dietro ai farmaci omeopatici, nel senso penso che ci siano persone che sanno bene come vendere il loro prodotto, che sanno come metterlo alla luce, fanno magari del marketing molto buono in farmacia. Secondo lei alla fine si acquistano perché si viene continuamente bombardati? Dai, dai, prima o poi qualcuno le compra. Dunque... Per alcuni l'omeopatia è la medicina che guarisce, per altri un'operazione di marketing senza alcun fondamento scientifico. Ma cos'è davvero l'omeopatia e come si preparano i rimedi omeopatici? Dopo oltre 200 anni dalla sua comparsa, alla fine del 1700, non sono ancora chiari i principi terapeutici contenuti nelle pozioni del dottor Hahnemann, il padre dell'omeopatia. Fu il medico tedesco Samuel Hahnemann alla fine del 1700 a formulare per la prima volta il principio similia similibus curantur, ovvero la cura è nella stessa sostanza che ci fa ammalare, purché fortemente diluita, agitata e ancora diluita, anche fino a 100 miliardi di volte. E dopo oltre due secoli di pratiche omeopatiche non esistono studi scientifici che provino l'efficacia clinica e terapeutica dell'omeopatia. E intanto il mondo si divide tra sostenitori e oppositori. 2010, Boots, la più nota catena di farmacie del Regno Unito, decide di vendere e distribuire prodotti omeopatici. Il popolo insorge, migliaia di volontari ingurgitano interi flaconi di pillole omeopatiche al grido «Dentro non c'è nulla» e nulli sono gli effetti. 2011, Stati Uniti, class action, California contro Boiron. Nello Scillo Coccinum, rimedio omeopatico per l'influenza, soprattutto nei bambini, non c'è nulla, solo zucchero. L'azienda francese patteggia e sborsa 5 milioni di dollari per risarcire chi aveva acquistato il suo Scillo Coccinum. Ma in Francia l'omeopatia è una risorsa fondamentale, in parte rimborsata dal sistema sanitario nazionale e regolamentata quasi come i farmaci tradizionali. E in Italia? Secondo l'Istat sono 700 i medici omeopati che esercitano nel nostro paese, 10 milioni gli italiani che fanno uso di prodotti omeopatici e con un mercato che vale 400 milioni di euro l'anno, il 5% della spesa nazionale per farmaci non rimborsabili dal sistema sanitario nazionale, cioè quelli pagati direttamente dai cittadini. Un mercato, dunque quello dell'omeopatia, che vale molto, ma molti sono anche i dubbi sulla sua efficacia. Il professor Silvio Garattini, fondatore e direttore dell'Istituto Farmacologico Mario Negri di Milano, centro di ricerca con 30 milioni di fatturato e 14.000 lavori scientifici pubblicati, ha recentemente dato alle stampe un libro sull'omeopatia dal titolo molto molto esplicito: Omeopatia, acqua fresca. Giovanna Corsetti lo ha intervistato per noi. Il libro che abbiamo prodotto insieme con un gruppo di collaboratori ha come titolo Acqua fresca con un punto di domanda, e si riferisce a tutto quello che è utile sapere per quanto riguarda i prodotti omeopatici. Ecco, ma quando le dice acqua fresca, esattamente cosa intende? Non c'è nulla in questi prodotti? Intendiamo dire che quando si raggiunge una certa diluizione non c'è più neanche una molecola di quello che era originalmente presente. È come se dicessimo che si vende una salsa di pomodoro con scritto questo prodotto, c'è scritto salsa di pomodoro ma non c'è dentro niente. Dottoressa Bartoleschi, nella sua farmacia vende prodotti omeopatici, cioè vende acqua fresca? Non è acqua fresca. L'omeopatia è una medicina alternativa alla medicina tradizionale ed è basata sulla diluizione di un principio attivo. Più questo principio attivo viene diluito con un certo metodo, più è attivo. Quindi è esattamente il contrario della medicina allopatica. Professor Garattini, ha sentito? In omeopatia meno c'è e più il rimedio funziona. Sì, ma se non c'è niente, non c'è proprio niente. Quando la dose diminuisce troppo e non c'è più niente, non può succedere niente altro che un effetto placebo, cioè l'effetto che uno attende avendo ingerito qualcosa che pensa che possa essere utile. Dottoressa Bartoleschi, però l'omeopatia sembrerebbe solo un placebo, di nuovo acqua fresca? Non credo assolutamente che sia acqua fresca. Io ho la dimostrazione che alcune patologie non curate con l'allopatia sono state curate con l'omeopatia. Però, professor Garattini, la gente guarisce, ha sentito? No, ma alto là. Questa affermazione è un'affermazione che non è vera, cioè è un'affermazione che non ha una base scientifica, perché non hanno mai pubblicato i loro risultati. Non c'è un'evidenza che ci siano trattamenti omeopatici che sostituiscono i trattamenti della medicina ufficiale. Anzi, c'è il grande pericolo che la gente usi prodotti omeopatici e quindi ometta di utilizzare trattamenti che invece sarebbero efficaci. E le mamme che usano l'omeopatia anche per i bambini, per alzare le difese naturali? Uno si deve chiedere come fa il nulla a migliorare le difese. Dottoressa Bartoleschi, ha sentito? Funziona benissimo, soprattutto sui bambini, a cui il vaccino tradizionale è difficile fare. Lo utilizzano regolarmente una volta a settimana per tutto l'arco invernale e non prendono mai influenze. Quindi ho avuto più riscontro che con il vaccino tradizionale. Quindi che non funzioni non lo posso proprio dire. Funziona. E lei, professor Garattini, non è d'accordo? Ma dove sono le dimostrazioni? Cioè, queste sono parole, ognuno può vantare la sua merce, non c'è uno straccio di lavoro scientifico, che non c'è nessuna documentazione. Si può discutere, è un altro problema, se tutti i bambini debbano essere vaccinati con il vaccino antinfluenzale o se debbano essere vaccinati quelli che hanno fattori di rischio. Interrompere o sostituire farmaci tradizionali come antibiotici, chemioterapici o salvavita o alcuni vaccini per bambini con rimedi omeopatici può avere sul malato conseguenze gravi. Non esistono studi scientifici che provino l'efficacia terapeutica dell'omeopatia. Secondo le analisi di laboratorio fatte dal professor Garattini dell'Istituto Mario Negri, sarebbe addirittura impossibile stabilire cosa contengono i singoli rimedi omeopatici. Su molti di questi prodotti si possono scambiare le etichette e nessuno se ne può accorgere, perché se noi prendiamo 10 boccette che non contengono nulla, in cui non si può misurare nulla, mettiamo delle etichette, poi le possiamo scambiare, perché se non c'è nulla possiamo metterci quello che vogliamo, ma alla fine non abbiamo nessun elemento obiettivo per dire che quell'etichetta appartiene a quella boccetta piuttosto che a un'altra boccetta. Dottor Marotta, in assenza di un'etichetta un prodotto omeopatico equivale all'altro e lei non saprebbe neppure distinguerli. È d'accordo come omeopata? Se l'etichetta viene messa al posto giusto e ci sono dei controlli, non vedo qual è il problema. Sicuramente un granulino non è distinguibile dall'altro, ma guai a sbagliare la sostanza. Per quanto riguarda la nostra pratica medica, se io le do arnica e lei non è un soggetto arnica, arnica ne farà poco, molto poco. Se lei è un soggetto seppia, le risponderà alla grande. Però, professor Garattini, sostanze diverse avrebbero effetti diversi. Cioè, per attivare qualcosa ci vuole qualcosa, se non c'è dentro niente è impossibile immaginare che nulla faccia qualcosa. Però sono anche tanti quelli che ascoltano l'oroscopo al mattino e credono nell'astrologia, insomma, non vuol dire che questa sia una prova poi di efficacia. E come tutti i venerdì, la parola passa alla Sora Cesira, che è andata negli Stati Uniti a seguire le primarie americane e ha avuto una folgorazione per Hillary Clinton. E come ogni venerdì con Alessandra Fiori sentiamo che cosa vale la pena di fare, di vedere, di leggere, di ascoltare questo weekend. Allora, Alessandra? È uscito un libro molto interessante, attualissimo, su uno dei protagonisti più controversi del nostro tempo, l'uomo giudicato dalla rivista americana Forbes il più potente del mondo, Putin, vita di uno zar. Lo ha scritto Gennaro San Giuliano, giornalista, scrittore, vice direttore del TG1. Gli era stata affidata una piccola Russia e lui l'ha fatta crescere fino a farla diventare grande. È stato un ottimo padre. Ha riportato l'ordine in un paese che era in preda all'anarchia profonda, dove non esistevano né regole né leggi. Putin invece lo promuovo a pieni voti perché ha restituito dignità e autorevolezza al nostro paese. Bravo, veramente. Sì, continuiamo così. Gennaro San Giuliano, un personaggio tanto contestato all'estero quanto amato in patria. È davvero così? Diciamo che magari è contestato in Occidente, nell'Occidente liberale, perché poi sappiamo che nello scacchiere geopolitico la Cina ha un ottimo rapporto con Putin, l'India ha un ottimo rapporto con Putin, alcuni paesi del terzo mondo hanno un ottimo rapporto con Putin. Indubbiamente è un personaggio controverso, la sua storia personale la potremmo definire quasi una spy story. Io in alcuni passaggi l'ho definito il James Bond russo, perché ha una vicenda personale molto controversa, però è un personaggio che noi dobbiamo leggere coerentemente alla storia della Russia. La Russia è un paese nel quale fino al 1860 vigeva la servitù della gleba, che era una vera e propria forma di schiavitù. Poi si è passati dall'autoritarismo zarista all'autoritarismo di tipo bolscevico. Ora, pretendere che la Russia diventasse immediatamente una democrazia di tipo liberale era storicamente impossibile. Io credo che Putin sia il punto più avanzato possibile della storia russa rispetto al proprio passato e certamente è stato un personaggio che ha rimesso ordine in Russia. Ecco, ma come ha fatto a riscattare il fallimento dell'utopia comunista restituendo un vero peso geopolitico alla Russia? Ma ha fatto un'operazione molto interessante. Innanzitutto diciamo una cosa, noi occidentali a volte guardiamo con un'aria di superficialità alla Russia, ma dobbiamo ricordare che la Russia è un grande paese. In Russia è germogliata una delle più importanti letterature dell'umanità. La Russia ha avuto delle punte di avanguardia scientifica, molti premi Nobel di matematica o di fisica sono persone russe. Che cosa ha fatto Putin? Putin ha riplasmato una nuova identità attorno a quella che i politologi russi chiamano una risorgenza nazionale, mettendo insieme diversi elementi. In Putin c'è la bandiera con la falce e il martello che è stata restituita alle forze armate, il vecchio inno sovietico che è stato riformulato e riscritto ma con la stessa musica dell'epoca di Brezhnev, ma c'è anche il nastrino di San Giorgio che è, come dire, la decorazione delle armate zariste. Quindi lui ha messo un po' di zarismo, di Russia imperiale, un po' di comunismo e di Unione Sovietica, qualche elemento di modernità e ha rifatto questa identità nazionale. Una cosa curiosa va ricordata: quando crollò l'Unione Sovietica e furono tolti dalle pareti i ritratti di Lenin, di Marx, di Andropov, di Chernenko, di Brezhnev, Putin mise nella sua stanza un ritratto di Pietro il Grande. De Gaulle parlava di un'Europa che va dall'Atlantico agli Urali. Secondo lei è Putin il nuovo leader di questa Europa? Lui ha rivendicato nel famoso discorso di Valdai, del forum di Valdai, ha rivendicato di essere lui l'interprete e l'erede dell'occidentalismo, cioè della difesa dei valori più propri dell'Occidente, l'umanesimo, la personalità, la famiglia e soprattutto il sentimento religioso, perché Putin è fortemente sostenuto dalla Chiesa ortodossa. Senta, ma le sanzioni alla Russia quanto pesano, secondo lei, sull'economia europea? Sull'economia europea pesano tantissimo, pesano soprattutto su due paesi che sono la Germania e l'Italia, che sono i due paesi manifatturieri e sono i grandi esportatori. Vanno abolite? Ma io credo che vadano abolite perché ci vuole realismo politico. La Crimea non tornerà mai più all'Ucraina, del resto la Crimea era russa e poi ormai la Crimea, c'è stato anche un referendum popolare tra l'altro, sì. Quindi poi dobbiamo chiarirci se l'autodeterminazione dei popoli vale per il Kosovo, che decise liberamente di staccarsi dalla Serbia e diventare uno Stato autonomo, se è valso nel caso della divisione fra la Repubblica Ceca e la Repubblica Slovacca. Allo stesso modo non vedo perché non debba valere questo principio dell'autodeterminazione dei popoli anche per la Crimea. Adesso comunque sulla Russia pesa un'accusa pesante, quella del doping di Stato, e Putin grida al complotto. A torto? Questo non lo so, vedremo. Dopo Putin, che c'è? Ma credo che Putin abbia preparato la sua successione, l'ha preparata con Medvedev, che probabilmente sarà il successore di Putin. Putin, vita di uno zar, di Gennaro San Giuliano, Mondadori. Cinema da ieri c'è Il segreto dei suoi occhi, un thriller giocato tra presente e passato, tra vendetta privata e giustizia pubblica. Ce lo racconta la nostra inviata molto speciale. I David di Donatella, che poi sono io. Donatella, buongiorno. Ciao, come stai? Bene, Donatella, però io la sento meglio del solito, non è al cinema? No, perché purtroppo oggi mi ero dimenticata che avevo appuntamento con l'estetista per la ceretta, che c'è tipo la mochetta addosso. Donatella! Sì, ma che ci sei cascata? È uno scherzo! Per caso hai intenzione di parlarci anche del film? Terribile! Non le piace? No, è bello, ma è terribile proprio. La polizia di Los Angeles ha trovato il cadavere di una donna nel cassonetto di un garage. Che ci fate qui? Ray, cosa c'è? È Caroline, è tua figlia. Cosa? Insomma, c'è il poliziotto Ray dalla caccia a quello zozzo delinquente che ha ucciso la figlia della sua collega. E però è contemporaneamente è innamorato di una procuratrice che non ride mai. Tipo te, capito? Non è vero. Sì, comunque il poliziotto non riesce proprio a incastrarlo. Quindi la mamma della bambina morta decide che si è stancata e vuole cercarselo da sola per farla a pezzettini minuscoli. È quello là. La pena di morte sarebbe troppo poco. E c'ha ragione, infatti. Donatella, io capisco, ma ci sarebbe anche da discutere. Vabbè, tu discuti, io intanto però lo sfondo, capito? L'ho trovato. E come hai fatto? Online. Ci sono 696.000 maschi caucasici nelle prigioni americane. In un anno puoi esaminare l'intera popolazione carceraria se guardi 1906 facce a notte. E così ho fatto. Per un anno? Per 13 anni. Però alla fine c'è il colpo di scena grande. Infatti. Che fa? Ci racconta la fine? Ed è bellissimo. Ma ci dica invece chi sono gli attori, scusi. Allora vabbè, ci sta Pretty Woman. Julia Roberts. E io l'ho detto, Pretty Woman. No, vabbè, d'accordo, poi? Poi c'è quella che ogni volta c'è una faccia diversa, quella con le guance a punta che stava con Tom Cruise. E Nicole Kidman, sì. Sì? Ah sì, poi c'è un tizio che però facciamo finta che proprio non c'è, perché c'è un nome tipo egizio. Chiwetel Ejiofor. Manco te lo sai dire. Comunque il film è copiato da un altro film argentino. È un remake. Che infatti in inglese vuol dire copiato. Bene, Donatella, Il segreto dei suoi occhi di Billy Ray con Julia Roberts, Nicole Kidman, Michael Kelly, Chiwetel Ejiofor. Il remake dell'omonimo film argentino, premio Oscar per il miglior film straniero nel 2010. Comunque è copiato. È un remake. Copiato. Va bene, grazie Donatella. E prego. Oh, ecco, come tutti i venerdì è arrivato Pietrangelo Buttafuoco. Pietrangelo, dove andiamo questo weekend? Alessandra, questo fine settimana io porterò i tuoi occhi bellissimi a fare pandan col mare di Sicilia. Ecco, arriviamo a Catania. Saliamo a bordo di una nave, la fregata maestrale della Marina Militare, che si apre alla città, perché c'è una storia da raccontare. Quale? che dopo 33 anni di servizio viene dismessa e quindi da oggi, proprio da oggi, fino a giorno 20 sarà aperta la città e ci sarà niente meno che una lezione all'università dell'ammiraglio Nicola De Felice, che è il comandante della Marina Militare, giusto in Sicilia. Ecco l'ammiraglio. Allora, buongiorno ammiraglio Nicola De Felice, siamo saliti quindi sulla fregata maestrale, ecco Alessandra Fiori. Ammiraglio De Felice, ma mi spiega perché la fregata maestrale viene dismessa? Dunque, la maestrale fa parte di una classe omonima di 8 navi gemelle. Queste navi ormai sono antiche, diciamo, hanno più di 33 anni, è arrivato ormai il tempo di metterle in disarmo, anche perché c'è una situazione finanziaria che non ci permette di, diciamo, avviare un programma a mantenimento di numero, e più la flotta si sta invecchiando. Senta, ma quali sono le opportunità di crescita economica in ambito marittimo? L'Italia ha una fortissima connotazione marittima, vi è uno spostamento del centro di gravità geopolitico verso l'ambiente marittimo in generale, quindi esiste una esigenza di protezione sia dell'individuo, ma anche delle linee del trasporto marittimo, le linee di comunicazione marittime, gli oleodotti, i gasdotti sottomarini, i porti, gli interporti, cioè tutto ciò che permette all'Europa e in particolare all'Italia, che dal mare riceve molto, la stragrande maggioranza dei nostri commerci passano dal mare, e se non si assicura questa attività probabilmente il paese rischierà di atrofizzarsi, questo sì, non vi è dubbio, non lo dico io, lo dicono i più esperti geopolitici del mondo. E la conclusione, ancora una volta cara Alessandra, non può essere quella dei Malavoglia, in fondo siamo a Catania. Siamo nel mare che ha visto il racconto di questa epopea ed è un'isola a tutti gli effetti, che però, pur essendo al centro del Mediterraneo, ha dato sempre le spalle al mare, così come anche l'Italia, che ha un numero di iscritti al registro navale perfino inferiore a quello della Svizzera, che, come sappiamo tutti, è circondata dal mare, o no? Mia bella signorina che ascolti lassù, so chiudi gli occhi e sogna finché c'è la gioventù. Ma eccoci alla musica con Franco Schifani. Ciao Franco. Ciao Alessandra. Nel 2010, per festeggiare 25 anni di carriera, i Simply Red si sono sciolti. Non era proprio only love, insomma. No, così. È sempre love, infatti. Guarda, poi nel 2014, come in un fidanzamento, non una minestra riscaldata, si sono rimessi insieme e adesso sono tornati con il Big Love Tour. Il primo appuntamento in Italia con i Simply Red e al Pala Lottomatica di Roma, domani, sabato 14 novembre. Ecco, altro concerto da non mancare, quello di dopodomani, 15 novembre, al Locomotive Club di Bologna. Sono i Lightning Bolt, Alessandra. Che non è tanto only love questo, sento proprio tutta un'altra storia. È tutta un'altra storia, te l'assicuro. Infatti, se andate, mi raccomando, non pensate di starvene lì seduti tutti comodini su una poltrona, perché questo gruppo fa di ogni performance un vero e proprio happening, dove gli spettatori partecipano, Alessandra, anche fisicamente. Pocano, brava. Hai pocano, visto? Pocano. Quindi, se andate a questo concerto, mi raccomando, mettetevi qualcosa di comodo, che non si sa mai cosa succede. Andate, ve ne assumete tutte le responsabilità e aspettatevi veramente di tutto. Allora, questi sono gli appuntamenti, due appuntamenti da non mancare, perché Alessandra, ne vale la pena. Claudio Pica, in arte Villa. Claudio Villa è un ragazzino di Trastevere che aiuta il padre, pensate, a vendere acqua nei vicoli del quartiere. Faceva l'acquaiuolo. Sua madre invece faceva le pulizie in un teatro di avanspettacolo. Ecco, debutta a 11 anni, arriva al successo attraversando mode, rivoluzioni di costume, diventando uno dei cantanti più amati e anche più odiati della storia della musica leggera italiana. Una storia che è un vero e proprio romanzo. Ce la racconta Giovanni Minoli. Restate con noi.